insensibili ricordi dipingono i giorni in un tono chiaroscuro, impalpabili momenti che si affacciano su tramonti indigesti a verità perdute. Instancabilmente precipito distrattamente fra dubbi e incertezze, mi vedo perso, galleggio senza cuore.